È una tregua, non la fine della guerra dei dazi, ma gli Stati Uniti e Cina firmano e la tensione commerciale tra i due paesi si allenta. Per quel che ci riguarda più da vicino, i dazi sui prodotti europei, tra cui vino, olio e formaggio italiani. Il presidente deve decidere nei prossimi giorni sull'aumento e sulla modifica della lista dei prodotti. Siamo in attesa. Lo è anche Trump, perché oggi arrivano in Senato i capi d'accusa per la procedura di impeachment, con nuovi documenti compromettenti che approdano sul tavolo dei parlamentari americani. Quelli italiani dei parlamentari sono alle prese con le continue tensioni nella maggioranza, le ultime tra Italia Viva e PD sulla prescrizione, guardano con attenzione alla Corte Costituzionale, che deciderà oggi sull'ammissibilità del referendum che abolirebbe la quota proporzionale della legge elettorale per gli appassionati del genere. Di cosa si discute in giro? Della scuola romana che suddivide i plessi scolastici sulla base dell'estrazione sociale dei ragazzi, dello smog e del blocco degli Euro 6, sempre a Roma, di un grafico che sta girando parecchio sui social. Mostra l'aumento di una pensione media negli ultimi 20 anni raffrontato a quello di un salario medio. La prima è cresciuta del 70%, il secondo esattamente della metà. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:30 minuti esatti, anzi 30 minuti e 37 secondi. È giovedì 16 gennaio e come sempre vi aspetto al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio. Fate sentire la vostra voce, fatemela sentire. Vi aspetto anche in diretta Facebook, siamo là, su Instagram, su Twitter, per questa nuova puntata di 24 Mattino con Carmelo Lauricella in regia e Giorgio De Luca in assistenza e in redazione. Allora, tante cose come avete sentito, un po' di temi di discussione ai quali possiamo aggiungere forse le cose che stanno circolando e quasi quasi partirei da quello perché ne prendono nota solamente un paio di giornali, La Verità con accenti critici e Avvenire con accenti meno critici, ossia l'immigrazione. Cosa succede? Succede che ieri la ministra dell'Interno, Lamorgese, è intervenuta in Parlamento. E intervenendo in Parlamento ha fatto capire abbastanza chiaramente che si sta valutando l'ipotesi di una regolarizzazione per gli immigrati che hanno lavoro. Insomma, qua nessuno dice la parola sanatoria perché mette paura dal punto di vista elettorale. E però, il suono è molto simile. Sentiamo un passaggio dell'intervento di ieri di Lamorgese. L'intenzione del governo e del Ministero dell'Interno è quella di valutare le questioni poste all'ordine del giorno se nel quadro più generale di una complessiva rivisitazione delle diverse disposizioni che incidono sulle politiche migratorie e sulla condizione dello straniero in Italia. Capito, un po' più in generale una rivisitazione delle leggi sull'immigrazione. Tra l'altro di questo parleremo alle 8:30, quando ci sarà la nostra Maria Latella. Avremo ospiti Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, e Roberta Pinotti, che è senatrice del Partito Democratico ed è anche la responsabile sicurezza del partito. Perché? Perché il tema oggettivamente c'è. Da una parte la questione dei decreti sicurezza e dall'altra parte il fatto che, insomma, non è un problema di oggi, ci sono 600.000 persone irregolari sul nostro territorio e a qualcosa bisognerà pensare. C'è ovviamente chi è per la linea dura, le espulsioni, ma non sono facili da fare, lo sappiamo perfettamente, e c'è chi invece ragiona appunto su una regolarizzazione totale, parziale, quello è tutto da vedere. Il tema torna comunque in campo, a pochi giorni dalle elezioni in Emilia-Romagna. Cosa abbiamo ancora? Beh, insomma, sono tutte le discussioni nella maggioranza, insomma, un po' di feticismo della politica, Renzi contro il Partito Democratico sulla prescrizione, sentiamolo, va. Paradossalmente, Forza Italia e la Lega oggi hanno votato insieme a noi. E il PD, che era il partito che aveva fatto quella legge con Andrea Orlando, ha votato con buona fede. E stanno in governo insieme. Ma scusi. Io vorrei mandare un abbraccio di solidarietà a tutti i riformisti del PD che stanno inseguendo i grillini. Cioè, si diceva, PD e 5 Stelle faranno un governo insieme perché almeno il PD potrà in qualche misura guidare il percorso di cambiamento dei 5 Stelle. Vespa, sulla prescrizione è avvenuto esattamente il contrario. Ed era, vabbè, lo avrete intuito, a porta a porta. Cos'altro? Vi farei sentire Giancarlo Giorgetti della Lega, visto che sulla politica siamo. Giorgetti sul tema di Salvini e della svolta parzialmente moderata. Salvini, misurandosi nell'attività di governo, secondo me si è reso conto che ci sono alcuni ambienti che contano, ad esempio gli ambienti diplomatici con cui avere a che fare, e quindi non è che puoi fare la guerra a tutto il mondo. Sui temi economici bisogna confrontarsi con le categorie, con gli imprenditori, con chi in qualche modo vive ogni giorno la realtà della produzione del reddito e di dare uno stipendio ai lavoratori, e bisogna capire che appunto viviamo in un mondo in cui la politica è fatta sì di teoria, che è fatta di slogan, ma è fatta anche di risposte concrete ai problemi dell'economia e dell'impresa. Così Giorgetti ieri. Cara Silvia Brasca, giornalista della 7, come stai Silvia? Buongiorno. Tutto bene, buongiorno a tutti. Allora, ma guarda, ti direi che tutto sommato inizierei da questa questione della sanatoria, sai Silvia, perché è un po' sotto traccia, no? Persino La Verità, che è un giornale molto battagliero, molto di destra, molto vicino alle posizioni di Salvini, lo mette un po' a pagina 8, un po' laterale. Avvenire lo mette a pagina 11, per quanto con un richiamo in prima. E però la sensazione che il governo, insomma, si voglia muovere in questa direzione l'ha data anche Graziano Del Rio ieri con questa intervista Repubblica. Tra l'altro vi dico, il titolo di Repubblica di ieri ha suscitato un vespaio pazzesco, perché il titolo era cancellare Salvini tra virgolette, ma l'idea e il ragionamento era sulla cancellazione dei decreti sicurezza, no? E i leghisti sono arrabbiati molto, hanno detto questa è un'incitazione all'odio terribile, tanto che insomma anche un po' di quotidiani la stanno mettendo giù molto dura su questo fronte. Senti, mi sembra che il tema, dopo essere rimasto un po' sotto traccia, stia riemergendo per certi versi. Guarda, riemerge, mi sembra che riemerga probabilmente anche con i toni giusti, nel senso, mi piace la parola emersione, cioè più che sanatoria viene usata questa parola emersione, cioè intanto vediamoli, capiamo quanti sono, e il conto qua siamo sugli 800.000, e poi regolarizziamo che è il lavoro, cioè è un esercito, e se questo, intanto questo primo screening, questo affrontare con toni, e lo vediamo già nelle parole, ipocrita, emersione, regolarizzazione, sanatoria, però si tratta di sanare situazioni anche di colf, badanti, cioè situazioni di lavoro in nero con un rischio di sfruttamento direi più che conclamato, quindi se andiamo in quella direzione, secondo me, sì. E soprattutto con i toni giusti. Si parla di 200.000 solamente tra colf e badanti, ecco. 200.000 persone solamente tra colf e badanti, paura. Che sarebbero in nero e sono irregolari, certamente. No, è un tema sicuramente, vedremo come si svilupperà nelle prossime ore, perché il punto è questo: questi argomenti si possono affrontare con estrema razionalità, a patto che non si sia diretti verso un voto di qualche tipo. Allora, dato che mancano 10 giorni alle elezioni in Emilia-Romagna, sappiamo perfettamente che cosa succederà di questa vicenda e vedremo se avrà ovviamente un impatto sul voto. Nel frattempo, cara Silvia, come dicevamo, insomma, la maggioranza, per così dire, siamo sempre là, mi viene da dire non gode di ottima salute, ma in realtà insomma, le discussioni sono talmente quotidiane che non so nemmeno, insomma, ecco, che tu che dici? Ma guarda, appunto, la storia del voto in commissione ieri, quella lì è una frattura quasi insanabile. Ho visto ancora ieri Renzi a Porta a Porta, ieri sera, e lui sgomita, insomma, vogliono giustamente, cioè politicamente giustamente dico, farsi vedere che ci sono, altrimenti il dialogo è tutto PD 5 Stelle, quindi anche con, direi, le primarie in Puglia, no? Abbiamo visto che già lì ci sono degli scarrocciamenti, insomma, di questo treno. Perché là, lo ricordiamo agli ascoltatori, le primarie le ha vinte Emiliano, ma né Renzi né Calenda hanno alcuna intenzione di sostenere Emiliano, e pare che dopo essersi detti le peggio cose l'un l'altro, in particolare Calenda nei confronti di Renzi, siano pronti a fare un accordo per presentare un loro candidato in Puglia. E vabbè, insomma. Con, anche con Italia Più, se non sbaglio, cioè dovrebbe essere questa, sì. Europa Più, scusate. E quindi sì, certo, è il modo per farsi vedere anche, diciamo. C'è anche da dire, se non sbaglio, ieri altri 2-5 Stelle mi sembra siano staccati, quindi, sì, due senatori, quindi con una maggioranza di cui uno è stato mandato via. Si tratta di Lello Ciampolillo, che io ricordo sempre perché è l'uomo che, per evitare l'abbattimento di un ulivo, è pugliese, per evitare di un abbattimento di un ulivo che doveva essere abbattuto in forza delle misure contro la xylella, prese la residenza sull'ulivo, tipo il barone rampante di Calvino, cioè fece questa sceneggiata che naturalmente non portò a nulla, insomma, comunque, diciamo, questo giusto per tratteggiare un po' il personaggio, però sono due che sono, altri due senatori che sono usciti, una maggioranza un po' meno solida, ecco. Difatti, sì, una maggioranza meno solida, però ieri sul fronte 5 Stelle registriamo un rientro, almeno su Facebook, di Battista, che con un abbraccio a Luigi Di Maio, e mi sembra che la storia delle concessioni di autostrade sia proprio il tema sul quale i 5 Stelle hanno fatto il loro fronte più caldo, per cui sembra, cioè, su quello è dirimente per un rientro in pieno di Battista, ecco, sulla sì. Scena adesso è al confine col Pakistan. Sì, è già è vero, ho visto questa cosa, sì. È in giro da qualche parte, era a Teheran, sì. Ecco, l'ho citato proprio perché ha detto, non è una difesa della categoria giornalistica, però ha parlato dei giornalisti da hotel, dicendo bisogna raccontare, sono i giornalisti che dagli hotel di Manhattan volevano raccontarci Trump, ecco, forse non in quelle zone dove tanti nostri colleghi non in hotel sono caduti, in quella parte di mondo tra Afghanistan, Pakistan, una per tutti Maria Grazia Cuttutti, certo. Cioè, lo dico perché quando ieri ho letto quella cosa, ecco, detta da là, dici dove una nostra dove tanti nostri colleghi, ne cito una per tutti, sì. Ecco, questo sì. mi aveva un po' infastidito. Allora, comunque, di Battista e Di Maio, come diciamo ieri con Paolo Mieli in rassegna stampa, i due papi anche qua, vedremo come andrà. Vedremo come andrà. Ascolta, qualche vocina, un paio di voci, va, giusto un paio davanti a questa scuola di Roma nella zona trionfale, Carmelo Lauricella, vai. È vergognoso, cioè io ho scelto questa scuola proprio perché mia figlia deve stare con tutti, perché il mondo è questo qua, cioè non è che bisogna fare discriminazioni. Una descrizione del genere è sgradevole, superficiale, proprio di una persona proprio incapace, proprio. È un'assurdità. Da una parte ricchi e da una parte poveri. Non esiste, non è mai esistito. Vorrei proprio sapere chi sono poi questi ricchi e come li classificano. Vabbè, insomma, questa scuola di Roma che ha messo nella descrizione della scuola la distinzione dei plessi sulla base del ceto di appartenenza, insomma, in uno ci sta il ceto medio alto e qualche straniero, soprattutto figli di colf, badanti e autisti, in un altro il ceto medio basso, in un altro un ceto medio, ammesso che il ceto medio esista ancora, per carità, perché poi su questo potremmo anche aprire un dibattito. E questo ovviamente apriti cielo con la ministra Azzolina che interviene, questa preside tra l'altro che ha commesso questo errore di lasciarla là, perché la descrizione era là dal 2011, è in realtà una preside nota, una preside di frontiera per così dire, perché era quella che era la responsabile della Pisacane di Roma con il 90% di stranieri all'interno della scuola. Quindi un personaggio. Insomma, Silvia, anche qua insomma, si apre un mega dibattito. Mi consenti di dire una cosa, non so come la vedi tu, però un filo di ipocrisia su questo dibattito c'è, no? Perché poi alla fine la gente lo sa e manda i figli nelle scuole e li scrive anche su quella base là. Poi, per carità, la scuola non lo deve fare, certo. Però, ma anche però sulla base, perché io probabilmente magari uno dice, dove c'è la famiglia di Cortina d'Ampezzo che è l'autista, ecco, lì non ce lo mando. Magari non figlio. C'è, esatto, magari decido per scelta di non mandarlo là. Perché tutti vanno su questa corrente di pensiero, invece no, buona sapersi, perché lo mando insieme. Lo mando da un'altra parte. Lo mando da un'altra parte, no, detto, è uno scherzo, no, certo che c'è un'ipocrisia bella e buona. Certe cose, ecco, non devono essere lasciate lì, e mi sembra proprio il fatto che sia la preside di quella della scuola Pisacane che sia stata un'ipersensibilizzazione quando lei si trovava che la gente non glieli scriveva i figli, perché il tasso di figli di famiglie straniere era così alto. Lei ha capito che quello era uno dei temi principali, più che della qualità didattica dell'istruzione. Sì. Ecco, poi dopo, certo, scritto non si può, ecco, e non si deve, però è un tema che quando si sceglie una scuola è primario, quasi viene prima della qualità didattica. È vero, per alcuni genitori sì. Scrive Max, battuta, però devo dire, Max arriva in ritardo, ci scrive su WhatsApp, arriva in ritardo perché questo è il titolo del manifesto, e in un altro plesso scolastico ceto la qualunque. Vabbè, vai, traffico. E a proposito di traffico, anche se non ce n'è un granché a quest'ora, veniamo alla questione di Roma, che non è solamente la questione di Roma, ma è la questione più in generale dello smog. E di come si contrasta. Molto si è discusso nelle ore scorse e ancora se ne discute oggi di questo blocco che è arrivato a Roma anche per le diesel Euro 6, per le auto diesel Euro 6, che sono delle auto come, c'è un bel pezzo su quattro ruote, lo trovate anche su internet, che vi spiega che in realtà sono delle auto sostanzialmente molto più pulite e quindi non c'è tutto questo bisogno. Ma soprattutto i dati testimoniano che il blocco non funziona. Lo trovate oggi sul Messaggero. Nei giorni nei quali circolavano i diesel c'erano 8 centraline su non mi ricordo quante, su 16, che testimoniavano un aumento, no, degli inquinanti. Ieri erano 9 su 16 e quindi evidentemente non è che funziona un granché questa cosa. Roberto Morassutto, sottosegretario all'ambiente, buongiorno, eccoci qua. Insomma, molti criticano la scelta, insomma, del comune, ma più in generale l'idea che si possa procedere con queste limitazioni del traffico che poco impatto hanno. Lei che dice? Guardi, le limitazioni, adesso io non voglio discutere nel merito più di tanto la decisione specifica del Comune di Roma sulla questione Euro 6, è una valutazione che ha fatto il Comune, però diciamo che gli interventi di limitazione del traffico sono degli interventi emergenziali che si rendono necessari in alcuni momenti in cui i livelli delle emissioni e le polveri superano i limiti di guardia, tuttavia non possono naturalmente essere una misura risolutiva. Occorrono misure più strategiche, più di fondo, per cambiare la modalità dei trasporti urbani. Nel decreto clima che abbiamo approvato recentemente ci sono delle prime misure che vanno nella direzione dell'incentivazione del trasporto pubblico, del trasferimento di quote di trasporto urbano dal trasporto privato al trasporto pubblico, della diciamo azione per favorire anche il rinnovamento del parco vetture in aree urbane, con la rottamazione fino ad Euro 3, con l'incentivo per esempio all'uso del trasporto ciclabile elettrico, perché comunque le nostre città hanno un problema diciamo genetico, sono state costruite e immaginate nella moderna soprattutto per facilitare il trasporto privato, la mobilizzazione di massa, e hanno un gap di trasporto pubblico enorme. Oggi noi lo paghiamo perché siamo un paese che ha livelli record delle morti per inquinamento. Quindi noi come governo abbiamo iniziato una strategia in questa direzione, ma è un inizio ovviamente che va sostenuto. Le risorse che sono state messe sono importanti. Allora Morassut, a me è chiaro, no? Mi è chiara la prospettiva di lungo termine o di medio termine, no? Quindi gli investimenti, gli incentivi, per quanto il bilancio dello Stato possa effettivamente fare su questo fronte. E però resta una questione sulla quale i cittadini in questo momento, ora, oggi, si dividono e discutono, ossia il fatto che tu ti trovi appunto in situazioni di blocco del traffico che scarsa efficacia hanno, soprattutto se il meteo non ti aiuta, quando invece magari trovi delle caldaie sulle quali non vengono sostanzialmente effettuati controlli e che inquinano magari molto di più. È evidente, gli interventi sul traffico sono parziali, non hanno un livello di incidenza, ma questo ormai da anni, tuttavia non se ne può fare a meno, voglio dire, perché naturalmente il tema delle emissioni riguarda appunto anche le emissioni degli edifici. Adesso io potrei qui adesso aprire tutto il capitolo degli interventi che abbiamo messo in campo, gli ecobonus che sta tornando, è tornato con la nuova manovra finanziaria per favorire l'introduzione delle rinnovabili, ma c'è anche un tema costruttivo degli edifici, incentivare la demolizione di costruzione con l'uso di altri materiali, è un insieme di azioni. In particolare sull'Euro 6 però, per tornare alla questione sull'Euro 6, noi abbiamo avuto nel decreto clima una discussione abbastanza, diciamo, è stato uno dei momenti della discussione in Parlamento, quello dell'Euro 6 più di maggior confronto, perché nel corso della discussione al Senato e poi alla Camera l'Euro 6 è stato poi tolto dalle categorie di intervento e di incentivazione che erano previste nel decreto, perché è un Euro 6 diesel, a un certo punto è prevalsa questo punto di vista, è un Euro 6, è un diesel, anche se è forse la forma più avanzata, diciamo, da un punto di vista di contenimento delle emissioni, di tecnologia motoristica, però si è poi deciso di fare uno scarto generale sul tema diesel e andare molto di più sulla promozione di diversi e sull'incentivazione di diversi vettori. Teniamo conto, per esempio, che per il trasporto pubblico locale. Perché Morassut, questo è un altro tema, no? Perché molti romani ci scrivono: ragazzi, ma i mezzi e l'ATAC sono in gran parte Euro 3. C'è un bel pezzo di Andrea Giuricin oggi sul Messaggero che dice esattamente questo: sono mezzi che hanno una media di 12 anni di età. Insomma, Roma ha un drammatico problema del parco vetture, che ha ormai, io sono stato amministratore comunale a Roma, non lo ricordo, qui siamo a San Parco Vetture di altri 12 anni, gli ultimi, diciamo, le maggiori commesse per l'acquisto di nuovo materiale rotabile a Roma risale a 2006-2007, forse proprio l'inizio del 2008, quindi c'è un drammatico problema, e adesso la tecnologia consente di fare scelte coraggiose. Diciamoci la verità, il tempo dell'idrogeno non è lontanissimo anche per il trasporto pubblico locale e per i mezzi privati, non è un tempo ancora vicino, però non troppo lontano. Sì. Poi è un tema di transizione, per esempio del trasporto pubblico locale e anche per la grande percorrenza commerciale su gomma, già oggi si possono fare scelte nella direzione dell'uso di combustibili a Quindi, Morassut, dato che abbiamo veramente 20 secondi, mi faccia chiudere. Lei non è contrario ai blocchi delle auto da parte dei comuni? No, non sono contrario, ma presi a sé, assolutamente isolati, è chiaro che sono meno che dei palliativi. Il problema è che i comuni debbono, e il governo, aiutare i comuni ad allargare il campo degli interventi. Grazie Roberto Morassut, sottosegretario all'ambiente, e grazie alla nostra Silvia Brasca, la nostra amica Silvia Brasca, giornalista della Sette, che è stata con noi e ci ha accompagnato nella prima parte della trasmissione. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa e poi appunto parleremo di immigrazione più avanti con Maria Latella e con i nostri ospiti. A dopo.